cazzo dimmi. Adesso non per dice vai a parlare sempre là, però la scabbia non se ne parlava da decenni, in questo periodo che questi diversamente colorati ci stanno invadendo, niente di strano che l'abbiano portata loro. Poi sai, da uno passa all'altro, che passa all'altro, che passa all'altro, e si fa il giro di Sassari, questa roba. Ma quelli che sono molto sporchi mie, hai compreso? Che si fanno il binghinnanto. È per quello, c'era anche nel giornale, c'era, per la gente sporca, e ti nacciappi un bel ti nacciappi, specialmente nel sabato di San Dio. Mi confermo, è gente che non si lava, ma grazie a Dio io non sono di quelli io, grazie a cosa? Purtroppo sì. Ma poi sotto qui Marco, alle palline, sai che fastidio, un fastidio allucinante, dici cazzo, questo non si è lavato, un prurito, devi mettere la crema lenitiva per alleviare il prurito, la crema lenitiva però di quelle, come si dice, quelle adatte, ecco, per questa cosa qua. Brutto, brutto, brutto, questo te lo posso dire che mi è successo circa tre mesi fa, ha avuto veramente, vabbè. E poi la crema che ho preso per l'antiscabbia costa 33 euro, una pomata da 50 ml. Azzo, quello perché hai troppe amanti. Oh, c'è da niente Marco, no, vai a fare qualche impianto d'antenna, hai capito, entri lì. In casa così Marco te ne accorgi, tocchi qualche cosa, tu ti la notte quando rientri prendi cazzo eccetera eccetera, ti tocchi Marco te ne accorgi e ti fa così, capito? E quello è il problema col lavoro che facciamo noi, come lo fa anche Luca che fa pianti l'antenna lì, specialmente al centro storico o cosa del genere, oppure in qualche appartamento, secondo che appartamento trovi, cazzo, che non è igienico o cosa del genere, te lo pigli subito, capito? Oh, addirittura, ma io credo fosse necessario il contatto fisico pelle a pelle, mi tipo, magari anche la stretta di mano, non lo so, non ne conosco, vai Tore. Infatti, si avvicinano quelli, non so, tenebri incannanti, tenebri incassagosa, bisogna stare attenti, ogni tanto non avvicinare senza niente. E così è. Oh, su a Carbonazzi viene un bel di chi sa niente, il Mattessi, che ti si avvicina e te ne basa quegli accari. È un bel. A Carbonazzi, in quelle palazzine in via Guadamata, quelle rosse, è pieno. Di gente così, hai capito? Quindi figurati. Addirittura ci sono 4 o 5 che stanno lì al, come si chiama, alla piazzetta la mattina, bevono la birra dalla mattina presto fino alla sera, sono già corti, capito? Ma sono tutti molto male, insomma, hai capito? Vanno nei giardinetti a fregare già diretti dei condomini, a fregare arance, limoni, cose del genere per vendersi, capito? E comparsi la birra. Vabbè, comunque è brutta, Sì, ho anche con rapporti sessuali, Marco, Anche comunque sono degli acari, capito? Mamma mia, sono maledetti. Praticamente ti vanno sotto cute, ecco, e ti formano questa, come si dice, questa cosa, questa, ti fanno uscire queste bollicine, ecco, ti viene da grattare, però una volta che tu ti metti la crema per l'antiscabbia ti passa, la ritenè dalle 8 ore alle 14 ore, non ti lavare, solo la leggi, capito? È così, vabbè, sì, un tubato costa 33 euro a 50 ml, su un botto costa. Tu pensa all'ex moglie di un mio amico che si sta separando, ne ha già preso 2, già 3 tubetti ne ha preso. non riesce a levarsi la scabbia. Quella rottura. Mi chiedevo se gli animali domestici facessero da veicolo, soprattutto i cani che magari vanno in strada, sai? No, non la va a fare quello. Non ci pensare neanche, Marco. Io ho il cane qua a me, dietro di me, così, dormito. No, non si è pigliato. L'unica cosa che l'hanno baciato, si è attaccato a questa cosa da mangiare, e gli ha fatto venire un po' di coso alla schiena, però cambiato crocchette e è passato tutto. Ah, ok. No, pensavo le gatte stanno in casa qua, però già stanno, non devono salire sui tavoli, già lo sanno, sul tavolo della cucina, se no le metto nel microonde direttamente. Chiuso due gli cammini dalla banca, per carità, che fischi. Prima ha parlato assieme Tore più Antonello, vai Tore. Prende e sale fino a dove sono. Allo basso. La porta mia, senti l'odore. Sì, vabbè. Prende, cazzo, è. E con Tore lo passo. Però vai, cazzo. E quindi ogni mattina a me balzare, usare la barecchina e lavarmi il terrarotolo mio. Fino alla. Ci sono 5 lampate di scale, quindi figurati tu. E infatti ho detto, qualche giorno ho detto, avevo un tempo a giudizio, come lo trovo di modo il cane, poi vediamo come la mettiamo. Ho detto, quando il gatto sparisce e comincia a essere mossigato, non voglio sapere che cazzo è stato, basta che non mi colpirà a me, e non è che può pisciare cazzo al primo piano, all'ultimo piano, come Giovanna c'ha il gatto lo stesso. Hai capito? C'ha il gatto femmina e io invece c'ho il cane che quindi a un certo punto è fatto così, capito? I gatti sono fatti così, si fanno col testosterone, cosa cazzo ne so io, lo sto stentando, perché il cane è tomiglia, lo sai che sta sempre sveglio, anche se sembra addormentato, c'ha le orecchie, cazzo, come sembrano due parabole, sembrano come sente qualcosa passare vicino alla porta a parte. Sì, quei cani lì hanno l'argento vivo addosso, non sono mai fermi, sono sempre in allarme. Vai Tore. Ah, Romeo, vai dormendo. Se trovo un mio bugio, a che buccia si può abbaggiare, se vuole. No, sta prendendo il vizio a abbagliare. Era abbagliava prima, E purtroppo gli animali sono così. Oddio, parte immediatamente, anche quando venivano 5-6 mattina a lavare le scale, e si metteva davanti alla porta, ricominciava, e poi abbagliava, finché non se ne andavano dal pianerotto dove sono io, non mollava, non c'era nulla da fare. Sì, che palle così però, se stavi dormendo ti svegliava lui, io l'avrei imbavagliato, l'avrei... Guarda che la mattina a me tu mi svegliava alle 6:30, 7:00 del mattino, hai capito? Quindi in pratica mi lecca l'orecchio dietro, poi cominciano a prendere il cuglio da Simona, poi cominciano a prendere le balle a me, finché non gli faccio vedere la bottiglia dell'acqua, come vede la bottiglia dell'acqua a parte. Allora si sdraia sopra le gambe mie, è stato già pesa poco io. Antonio, così è, purtroppo, non vengo da papà. Lo so, ci abbiamo il cane e ci dobbiamo tenere, il coso è quello, peggio per noi che l'abbiamo preso. Sei più impegnativo il cane, lo devi portare fuori anche presto, più volte al giorno, è una paranoia, più che altro per la mattina presto, per me sarebbe un problema, che ho problemi a addormentarmi, io dormo molto da tardi. I gatti almeno stanno in casa, no? Stanno lì, non fanno le scatole, capito? Da quel punto di vista, già c'hanno la sabbietta. Ah, bello, già stanno bene, già sono tranquilli. A voglia. Oh, io invece scendo alle 6:30 del mattino, poi alle 11:30, alle 4:30 e poi la notte alle 9:30. Ma controllare i cassonetti io, perché ci trovo tutto di più buono, roba nuova nuova. Oh, ho tolto quel cacchio di bip finalmente, ho trovato la voce dei menù. Ah, trovo il bip, ti stavo dicendo che io la notte alle 9:30 mi faccio il giro, orca, e mi faccio il giro dei cassonetti, non sai quanto hanno battuto la bocca, lampada, qui a Caporazzi, i dati stereo, una volta ci avevo trovato un televisore a LED, una volta uno LCD, e una di tu. Perfettamente funzionante, il discorso è quello. Poi, cosa ti posso dire? Altre cose che avevo regalato, secondo te ho regalato roba. CD, vabbè, CD me sono tenuto io, CD tutti funzionanti. Poi una volta ci avevo trovato quasi 50 videocassette, ci avevo trovato, nuove. Me l'avevi detto, ex videoteca. No, quelli me l'avevano regalati, ma le cassonetti, quando li mettevano una volta in via Milano e cose del genere, mi facevo il giro. Ma sai quanto l'ho trovato? Ci ho trovato anche un computer con un 100 CD, ci avevo trovato. Sono dovuto prendermi una sedia, cazzo, e calarmi nel cassonetto a poter recuperare i CD, cazzo. Erano tutti nuovi, funzionanti, non c'era manco uno graffiato. Io riprendete che vado a bere acqua. Quella è una cosa che faccio sempre, bevo anche più del necessario. Da quando avevo avuto quella patologia che si chiama diabete insipido, c'era il periodo post-operazione, bevevo roba di... Aspetta, quant'era? No, più di 4 litri al giorno, fino a 8, a sfiorare gli 8 litri sono arrivato. 8 litri in 24 ore. Ma 8 litri sono troppo. Bastano 2 litri al giorno, bastano. Ma lì era come una specie di sette... non naturale, mi era dovuta tutta la storia degli ormoni, adesso no, adesso sì, un paio di litri al giorno, abbondanti, dai, infatti sto sempre bevendo e andando in bagno. La glicemia come ce l'hai, Marco? La glicemia quanto ce l'hai? Stai bevendo e pisciando di continuo, controllati la glicemia, se è altina, occhio. No, allora, l'ultima volta era buona, diciamo, buona non proprio a metà i valori, è appena un poco più su della metà, quindi, no, ma io bevo per questione di patologia mia, Luca, e anche perché mi piace bere l'acqua, vabbè, frizzante. Una volta bevevo un pochino meno, però almeno quei 2 litri, guarda, in estate arrivo anche a 3 litri d'acqua, perché mi piace bere, però la glicemia ancora, nonostante tutto è passabile, dai, buonina, però devo stare attento agli eccessi alimentari, devo limitare il sale per la pressione, perché l'altro giorno mi sono trovato la pressione alta, vabbè, mi ero anche adirato con mamma, quindi l'incazzatura mi ha fatto salire la pressione, però sai, dopo una certa età devi controllare un bel di roba, devi fare un bel di esami, poi con la sanità che c'è adesso è uno schifo, ti devi pagare la maggior parte delle visite, te le devi pagare tutte. Vai, Tore. Io, Marco Mari, dici che hanno ripago, faccio tutto, mi fanno l'impegnativa, faccio gli esami del sangue e dell'urina, tutto che ci sono gratis. Chiamati positivo, dai, dammi una piccola chiamata, chiama fratello, cambio, senti qua questa piccola modulata. Luca, ma così tazza? Oh, avvertimi prima lì. Un dramma fatto. Niente, no, è già passato comunque. Ah, passato. Ma sempre bene, arrivo io alla te docce, sì. Anzi, a Pisa, dai. No, che abbia 30 anni, capo. Ah, come vuoi, cosa mi vuoi, con la Rosmith? Ehi, così forte sono, non ci credo. Non ci credo, manco se mi dai 500.000 euro. Non ci credo. Ma siccome te non te ne do come mi devi credere. Oh, io gli andiamo, che andiamo, dai, dai. Rieccomi. No, comunque ti parlavo, sei gli esami generici, quindi a fare dopo 50 anni, che sono un controllo del cuore completo, magari ecografia, elettrocardiogramma, poi zona prostata, perché noi maschietti siamo delicati per quella roba lì, oppure fare il test su quelle patologie del colon retto, perché tanto ormai con tutte le schifezze che ci fanno mangiare, andiamo a parlare sempre lì, insomma un check-up completo vorrei fare, però sempre alla fine, se aspetti la mutua, muori. Ah, io c'ho la visita cardiologica, ce l'ho il 23 settembre, la visita oculistica il 1 dicembre, adesso devo aspettare per il collo, che devo andare a giugno al CUPU per prenotarmi per la visita per ottobre. Pensa tu cosa devo fare prima per dicembre per il medico diabetologo. All'anima, e quando è che l'hai prenotata la visita cardiologica? Da poco, quindi a dicembre, se uno c'ha un'urgenza, voglia... No, di quella già non è urgente, tanto con il diabetologo sono a dicembre la visita, mi chiamano loro a dicembre e va bene, già tutto pronto, ecco preso, se riesce a farli tutti. Dica, a me è capitata una cosa strana, allora la mia endocrinologa aveva chiesto di vedere il campo visivo, voleva vedere se, vabbè si chiama, vabbè la visita oculistica generica più il campo visivo, faccio l'impegnativo, mi fa l'impegnativo e tutto, chiamo il CUP, prima ha detto vai tramite CUP, telefono al CUP, praticamente a Sassari, non so per quale motivo di, a Sassari provincia, credo, il campo visivo non si può fare con impegnativa, non ha giù compreso come funziona, non lo posso fare. E ho detto allora se devo prenotare una visita cosa devo fare? Mi ha spiegato qualcosa di strano, però alla fine a quanto ho capito te lo devi pagare. Allora vado dallo specialista che so io. È una cosa strana, cioè ti fanno la visita oculistica ma non il campo visivo, che è una cosa un po' più accurata, non a Sassari, col CUP a Sassari non si può fare, dice in altre città o in altre regioni si può fare, ma in provincia di Sassari no. Stanno facendo un casino con la sanità, Torre, che non hai idea, cioè non ne hai, già ne hai idea, sei a voglia. Lo so, per il campo visivo l'ho dovuto fare a coso io, Oristano l'ho dovuta fare, perché qua non ce n'era, e già riesci da Oristano a farlo. Figurati, io ho detto no, provincia di Sassari, ho detto perché non è che posso viaggiare, ma potrei in teoria, ma non voglio rompere le scatole a nessuno, eccetera. Io l'avevo fatto in via Lomberto, il mio appagamento, c'era un ottico, così, un oftalmologo, così si chiama, vabbè, lo specialista per gli occhi, mi aveva fatto una visita molto accurata, e da lì avevamo scoperto poi la patologia mia, mi si era chiuso l'occhio destro, allora la parte destra dell'occhio destro tutta buia, e tu c'era un capillarino, alzo il capillarino, una bomba a mano in testa avevo, pronta a scoppiare, e poi avevo fatto l'operazione a Milano. No, io per fortuna non va via nulla, ero tranquillo, per fortuna. Poi ultima, prima che venisse questa cosa, l'ho fatta, la visita oculistica l'ho fatta al dottore ce l'ho fatta. Poi su in via Tempio, insomma, tutto quanto l'ho fatto tre anni fa. Eia, c'è un po' di mal di gola, me lo fa quando parlo. Ah, io Antonello e Luca, li prendete anche voi? Aspetta che sto cercando lo spinotto del coso. Arrivo subito. Lo spinotto di che cosa? Dell'orinale. Devo pisciare, devo usare il lineare a trovarlo. Cos'è il catetere? Lo spinotto al catetere devi mettere, eh? Non riesci, no, a pisciare e fammi già. Luca, non riprende. Io che sono stanco di parlare, parlate un po' voi, almeno ascolto. Certo, così non ti si asciuga la bocca e nella gola. Sì, ma già sto bevendo, ma anche a mia zia lo fa, un po' come parla. Ci siamo già un paio d'ore con Antonello, credo, boh. Non sembra, siamo tratti di che era pomeriggio e siamo ancora qua, sono le 7:15. Credevo che dovesse tarare uno smitter, invece non ne deve tarare, adesso che ha detto che va bene così, boh, vabbè. Ah, Romeggia c'è pur cappuccio. C'era bloccato, l'ho dovuto aprire, mettergli lo spray. Ah, giudice, come funziona in deve. Non è che devo. A toccarlo non mi conviene, perché se in FM manda la trave funziona bene, in AM vuol dire che è nato così, il discorso è questo. Se metto a toccarlo, l'unica cosa che posso fare è portarlo da qualcuno e fargli fare la regolazione delle AM Power. Perché nelle altre bande funziona benissimo, da 15 watt, qua da 5, quindi in AM. A un certo punto o rigirare così, mi sembra un pochino strano, ma comunque sia, cosa lo tocca fare? Far danno? No. No, ma potrebbe essere così, mio Antone. No, io parlavo dello smitter in ricezione, non in trasmissione, in ricezione. Perché se io con 4 watt arrivo a 9, come ti ho detto prima, no, capirai che c'è qualcosa che non va. Se tu arrivi con gli stessi watt 9,15 è il segnale giusto, no? Io ti arrivo a 9 vuol dire che è un po' secco, va un po' taratto, da. Poi adesso c'è lo schema elettrico, cosa vuoi di più? Sì, quello già lo so, basta che seguo la pista, non è quello il problema, già. Io sono ancora intelligente, grazie a Dio. Basta seguire la pista del, come si chiama, dei fili dello smith e vado direttamente al trim e me lo regolo in ricezione. L'unica cosa che serviva è farlo aranciare il lineare. Adesso io non mi ricordo se c'avevo due carretti o se ne avevo uno. Mi sembra che ne avevo uno, se non mi ricordo male. No, due ne avevo capetti, quindi me ne manca uno in giro, li metterò in giro in qualche posto. Antone, se puoi alza un po' la modulazione, certe volte o ti allontani dal mic, sei un po' più basso, un po' troppo basso. No, perché poi riprende Luca, mi spacca le orecchie, mi devo alzare e abbassare il volume. Ah, io siete appena. Tutto a manetta metti tutto a manetta. No, voglio provare questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com'è? 1, 2, 3. Ah, tutto vibrato Antone, non va. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso basso in radio e vibrato, senza l'alternata però. Perché prima c'era anche una specie di... Aspetta. No, male, malissimo. Adesso 1, 2, 3, sono tornato normale, giusto? Sì, guarda, l'importante è che parli vicino al mic, è tutto lì. Ah, beh, aspetta che attacco il chiudo, così almeno esco meglio. Ui, è Gianni doppio Roma, sta più entrando. Allora, ieri sera stavo parlando con lui, cioè ieri sera, sono alle 8:05. Ah, è entrato, io, cosa stavo facendo? Ah, barba e capelli in bagno, sembrava un barbone, quella barba è bianca ormai, non vale la pena di farla crescere. E quindi non è col rumore della macchinetta, anche se qua magari era accesa, non ho sentito nulla. Sono Adesso c'è un po' più di audio, dai. Avanti, io credo, ma io credo. Antonella, dalla Cina mi stava arrivando l'ennesimo antenino, quelli micromagnetici, bibanda, no? Tipo Nagoya, quelli là. E dal 27 febbraio, mi dice, è arrivato nel paese di destinazione. Però poi il tracciamento si blocca lì, alle poste non risulta il codice, o se l'hanno emaniato, o se l'hanno messo nel QCO, io ancora non ne ho visto, siamo al 19, cavolo, 19 del mese di coso, insomma marzo, e qua 27 febbraio, arrivato in Italia, 19 marzo, ancora qua il logo. C'è un casino alle poste, già lo sai. Come sono arrivati adesso? Guarda un po', 2, 3. Un bonbon, sì. Ok, questo è il CM40 special, l'app special della Kenwood. Allora io devo cercare, dove cazzo l'ho messo? Che cosa di là? Ok. Adesso non mi ricordo perché cazzo ci uscito. Vabbè, lo cercherò domani. Ehi, ehi, Tori, riprendi. Ci mette un pochino, ci mette a arrivare. Io ho ordinato da questi qua. E ci ha messo quasi un mese, ci ha messo a arrivare. E anche a me lo sai, ci ha messo un mese a arrivare il pacco. Come sono arrivati 5 cacciavite, un martelletto e un taglierino, 129 euro. Sono truffato allora. Ho dato mandato che ci mette dove andiamo a andare, ho mandato che c'è cosa. Un XG 129 euro che costava 800, capito? Questa vita qua. Ma la male non l'ha truffato solo a me, ha truffato altri 140 e evidentemente le hanno arrestate perché in Romania è capito. Non si sono più sentiti né visti molti, evidentemente erano pizzicati. Da Romania non è che giù mai da Antibia che dice che c'è truffatori, ecco già. Però Antonelli, un po' di imprudenza, un bel imprudenza, cioè se tu sapevi che l'apparato magari costava sulle 800, come potevi pensare di trovarlo solo i 129 euro? Era troppo sporca la cosa. Poi se l'avessimo visto insieme magari ti avrei detto lascia perdere. Vabbè, vinculate, sai, se pigliano una volta sola, la seconda l'asino non incudi più, quindi a un certo punto fanno quella roba su Facebook, cosa del genere, un telefonino che si apre a metà, 50 euro, attacca il telefono in culo, a un certo punto, no, non ne prendo più, no. Se piglio la roba a me, piglio magari quell'inculata di Amazon che ti finiscono una scatola di telefonini per 50 euro, cazzo. Ma a te ci credi, cazzo. Ma che quello deve essere, appena ti arriva la scatola a casa, ti arriva quello stronzo di Porto Torres, della BRT che te lo porta a casa, mi dai i soldi che ce la fanno, prima mi apri il pacco e poi ti do i soldi, se no i soldi non te li do e te la prendi in culo. Ma non funziona così. Anche una volta anche Gianni Operun l'aveva detto, dice, io prima, se ordino una cosa a rischio, io prima voglio che mi apra il pacco e dopo firmo. Non puoi, o dopo pago, non funziona così. Lì una volta che ti arriva o lo accetti o non lo accetti. Se hai già pagato lo devi accettare per forza. E poi se c'è la sorpresa brutta, però brucia per un po'. Vabbè, Antone, è capitato. Certi ci hanno rimesso ben più di 129 euro, ma centinaia di euro, chi migliaia anche. Vai, Tore. Per fortuna io già non so quelli dici. A me l'unica cosa che mi è andata male era mi diceva di questo apparecchio e io ho detto anche era molto dura una da va. Gli ho scritto un messaggio, se vuoi fregare frega qualche don altro, se no giusarrado con chi tu. Vabbè, non so come darà a mandarmi un messaggio che non era così. Allora Gitto, mandamelo e poi vediamo se mandarti i soldi o no. cosa mi ha detto? Dice no, prima i soldi e poi no, non funziona così da giudizio, non da va. Ehi, un rischio è comprare roba da privati, che non siano grandi aziende e che sia roba nuova, no? Comprare usato da privati è un rischio, sempre. Antonio, quei cellulari, sì, può darsi che vendano 50 euro una scatola di cellulari, sì, ma saranno rottami, certo non cellulari nuovi, saranno dei rottami per pezzi che ti vendono come usati, presumo, certo non nuovi, no? Poi c'è cellulare, ricordati, certi cellulari da nuovi costano 70-80 euro, smartphone, ti sto parlando. Ma valgono quello che costano, ce ne sono certi che costano 1300 euro, anche 2000 euro mi pare, di smartphone. E questo era Amazon che ha scritto, hai capito? Poi ho controllato tutte quelle stellette, ho 5. Poi ho detto, se la può pigliare in culo, lui è la scatola. Poi visto che qualcuno sul tempo si è lamentato, ha fatto la richiesta e l'hanno inculato, in pratica non è arrivato manco il pacco, non sono andato, Temu si è incassato i soldi e c'è buonanotte. Vabbè, quello allora era una truffa palese, magari non era nemmeno Amazon, era uno che imitava Amazon, un sito che proprio copiava Amazon, uguale, anche con eBay è successo, guarda, fanno di tutto, poi con internet sono esplose le truffe di tutti i tipi, è una cosa terrificante. Ora riprendi. Vado in bagno. Infatti è così. Sicuramente qualcuno che era truffelli. A me già non mi hanno imbruttito. L'unica cosa che devi stare attento. Ma non so cosa viene più nulla da Facebook qualcosa. Se vado dai posti dove posso acquistare e basta. E le ditte private, cioè le ditte più che altro, conviene. Radio Roma, come cazzo si chiama, quella eccetera, eccetera. Ma su baracchini c'è gente che tre apparecchi, 60 euro, 70 euro, 100 euro. Funzionati, magari ti arrivano a casa e non servono un cazzo, ti stai pigliando mondezza, il discorso è quello. Magari gli accendi e non funzionano nel trasmissione di ricezione, il discorso è quello lì. Non è male più la pena ormai. Ci vuole, anche per la questione degli arrivatori, la stessa unica cosa ho visto. C'è qualcuno che fa il furberto ogni tanto, che vende mondezza e capito. Sì, a me c'è un francese che mi ha mandato questo, il presidente mi ha mandato e me l'ha rigarato. Me l'ha spedito e tutto. Io gli ho dato l'indirizzo e me l'ha spedito. Ed è sempre funzionante. Non è stato mai toccato. Solo ho regolato di cose, in trasmissione è stato regolato a 10 watt. Ma quella è una fesseria per il precedente, li conosco quelli. Quindi, magari fuori sono più seri, ma qui in Italia proprio non ti puoi fidare. Fuori sì, ti spediscono una cosa, la spediscono come si deve, è funzionante. Ho messo 3 giorni e mi è arrivato. Ha già detto tutto quanto, l'ho messo in funzione e funzionava che è un amore. E tuttora è funzionante. Meglio così, Tom, meglio così. No, io adesso mi avevo pigliato questo Lafayette LMS200 da un amico di Antonio. Io ho cambiato lo Smith perché c'era lo Smith che non funzionava. E uso il baracchino, funziona benissimo. In AM, FM, USB, USB, eccetera, eccetera. Ed è perfetto. Quindi figurati. Sì, no, già è così, sì. Purtroppo. Io non avevo già a comparato, tanto, non avanti ieri mi hanno chiamato per questo qua, per Lincoln, mi hanno chiamato e ha voluto sapere il prezzo e mi ha detto se me lo lascio di meno te lo prendo. Ho detto vieni a vederlo, te lo faccio vedere funzionante e poi vediamo. Ma non c'è qua, sai, no, sarà magari fuori. No, dei paesi, mi ha detto un paese, avevamo una mentone nel macro a paesi. Mi ha detto dei paesi. Ha detto, quando sei qua a Sassari, mi chiami? Te lo faccio vedere. Dai, è fatto bene. È arrivato bene, così va bene, vedi, quando invece da fuori poi viene talmente se lo prova, se gli piace è bene, se non gli piace se la prende il culo se ne va di nuovo a casa sua. Quando vedi la roba sei tranquillo. E poi mi ha telefonato dal continente e gli ho detto guarda come me l'hanno dato a me, è rimasto, non c'è nulla del coso, io te lo do come l'hanno dato a me con la scatola sua originale e tutto a quel prezzo, di me non lo do, come l'ho pagato io lo sto dando. E così è. Dice ci penserò, mi ha detto. Ci penserò, a un certo punto. A tre fai. Oriui. Ecco qua. Ci vado avanti. Anche la tavola d'avevo messo le 1140 e 101 e mi aveva scritto uno di Alghero, allora quando stavo in bassa sera ho detto non ho detto quando volete vieni qua a casa te lo provo e fa quello che vuoi, ho detto a me non me ne frega niente, vieni te lo prendi. Quindi e invece dice adesso sta facendo, dice tra il tuo, dice è un altro, mi ha detto e trovare se quando vuoi tu vieni te lo prendi, scegli tu o il 140 oppure quello che hai, se con quella persona sei in contatto con quella persona ti pigli quello, fa quello che vuoi, non è che mi offendo io, ci mancherebbe, io ho detto. No, No, io 140 Nico è stato va a venire lui, ecco, vabbè, chi deve fare in banda per l'ascolto già va benissimo, ma se c'è poco con il rubo glielo do. Ma non so dire, io non avrei preso io lì, ma ci so di è rimasta 600 in testa, non è 600, no, ma quasi grazie la mattina non bastava il 1600, altri 700 euro a pacco adesso, hai capito la mondezza. Adesso bisogna che vado a, cioè bisogna mi ricordo tutte le fatture che ho pagato, perché se, secondo me questi hanno fatto casino e sto pagando due volte, hai capito? Ma ho capito, no, Antonio, cos'è che hai detto? Se me sono arrivate due lettere dal corso della Cassa Mondezza stamattina, mi sono arrivate 2021-2024, e io mi ricordo di aver pagato la Cassa Mondezza, però cazzo, gli anni non fai ricordate le cazzo a certo punto, e quindi adesso mi tocca cazzo spucciare tutto cazzo, quello che c'è in Italia, tutte le fatture fuori, controllare eccetera eccetera, e mi sembra cazzo che sto pagando due volte, già devo pagare 1600 euro dal 2015 al 2017, ecco, ma c'è anche il 2024, 2023, sì, c'è tutto, mi ha detto, e invece cazzo già lo sto facendo pagare due volte, e questo volevo capire, hai capito? A un certo punto manco ne pago, è stato un abuso. Insomma, cosa loro? Mangiare a loro, mi mangio la mordessa io. Tu cercali tutte quante quelle che hai pagato, cercatele e ve le vai a vedere. E infatti quello è il problema, capite? Adesso devo cercare tutte le fatture una per una, controllare quello che ho pagato e poi mi vai a mettere le balle, perché non è possibile. E tu mangio, l'altra volta mi ha fatto, ma ci ho invitato a parlare, dice no, sono andato lì alla Deco, non sai che c'è l'ufficio lì in via Fornalini, a fianco alle poste, della Cassa Mondezza. Dice, non ce la pagava niente, mi ha detto no, cazzo, invece sono arrivati due cose stamattina, a un certo punto, cosa cazzo qua? Cazzo, 1600, 1600, ma dove la borsa? Già sono 5 mesi pagando le rate, a dopo 5 euro al mese, andate la borsa a pagare fino a quando sono morto, cazzo, nel 2023. Cercatele, perché pure a me è arrivata del 2022. C'è che c'è da sopra, ha detto scusate. Ah, le fatture delle cose che sono state pagate, come mai a voi non risultano? Ah, gli ho fatto vedere la cosa pagata dalle poste. Ecco qua. Sai, infatti, le fotocopi. Da 2 anni bersi l'anno. Senz'altro sì. Alle poste, cazzo, è una cosa allucinante, anche in altri posti. Vai a pagare e in pratica non esiste il pagamento, non si può più, cioè io non so più come cazzo fare, cioè prendo una cosa, vai a pagare le rate, tanto per dire, dopodiché cazzo e ti assillano, ci ha pagato prima. Non devi pagare il 15, cazzo sempre vivo i soldi 27, come cazzo faccio a pagare il 15, mi ho detto io, ma adesso scherzando, mi ho detto. la facciamo la mattina per pagare il 15 euro. Ma se ne cerca le cose, non cercano nulla, capito? Non frutta niente, non badano, neanche nei computer. Allora risultano non pagate, e capite? E quindi ti assillano, tutti i giorni. Sì, a me no, non me lo faccio, anche come te me l'hanno mandata subito, l'ho presa, sono salito su, detto, per venire qua mi avete fatto perdere un sacco di tempo a me, per venire qua, anzi mi hanno domandato scusa, e non è fatto di chiedere scusa, no, prima le perdete e poi venite a cercare che non l'ho pagata, quando ce l'ho ricevuta io, ma ce l'ho butto. Dopo 5 anni agito, dopo 5 anni non venite a chiedermi le ricevute, perché sono andate. Sì, dopo 5 anni, anche 10 anni. Però secondo loro vanno in prescrizione, capite? Quindi non tornano indietro, io mi ricordo che quando sono andato a pagare la tassa Mondezza, andavo a pagare direttamente lì nell'ufficio che c'era a Cugure, in piazza Santa Caterina, tu figurati tu. Poi c'è l'anniversario, tutto l'anniversario, ecco cos'è, era successo un casino. E stavano cercando di recuperare tutto, ma un bel niente, ti do la ricevuta e ce l'hai, ecco cos'è. Pure a me del 2022, stavano cercando delle cose, ma a me ecco la ricevuta di tutte e quattro volte che ve le ho pagate. Sì, infatti, vabbè. Quello è il problema, capito? Un bel casino, Quando io al centro storico, un togliaio in questa Santa Caterina, poi da lì ci erano trasferiti, facciamo tutto a mano, ti ricordi, entravi lì dentro l'ufficio e facevano tutto a mano, a un certo punto. Non c'era il coso. Allora vai. Vai, cercati, in tutti i fogli, cazzo. Come cazzo fai? Io mi sono trasferito da Castel Donato, da Corso Vito Emanuele, la Versa prima del 2015, quindi non lo so io. Se vado a cercare le ricevute. Allora, trasloccato, secondo te, cazzo, cosa ho fatto? La metà della roba ce l'ho buttata, mica. Ma no, quello è già andato in prescrizione, dopo 5 anni va in prescrizione, no, non te la devono più chiedere quella roba, te devono richiedere, infatti 5 anni, prima dei 5 anni te ne devono richiedere. Ma non è più così, no, a me mi hanno richiesto roba più di 5 anni fa, figurati tu. Siamo dal 2015, siamo al 2025, abbiamo cercato una roba del 2015, non hai capito? Sto facendo male, a scaricatore. Michele, sono io, mi sembra Vaffaro. Il commutatore del canale è praticamente difettoso. Quello facevo anche a me, nel 2009, nel caldo, che andavo e sparivo tutto un tratto. Dal 14 si usciva al 12. Ma come sto facendo a scarica? E tu che sei a scarica, non io. Core, controlla gli spinotti dell'antenna e eventuali spezzoni. Sì, perché ti sentiamo a scariche e tu senti a scariche noi perché c'hai qualche falso contatto. Sì, comunque Antonio, mi sembra strano che cerchi una roba così vecchia, boh, a meno che non ci tentino, magari dice questo non ne sa, magari paga, noi glielo diciamo, magari paga davvero e ci abbiamo fatto la giornata. Ma adesso già vado in quell'ufficio, vado, io dico. Quello che mi state facendo pagare è andato in prescrizione, quindi devo pagare il resto, sono passati più di 5 anni, quindi a un certo punto non vi pago più niente, dico, non errate. Noi abbiamo fatto, non me ne frega niente, dico, non vi pago più niente. È stata prescrizione. insomma, mettiamo un cazzo, vediamo un pochettino come la mettiamo. Stefano, occhiata è quella dal 2021. In su, fino al 2025, basta, non ti devono chiedere altro. Quelli sono persi ormai, passati 5 anni, non te ne devono neanche chiedere loro. E dal 2015 al 2017 sto pagando io. A me vanno provato, ma c'è andato di mare che ha già rigato tutto, ha già rigato, ha agito. Ma cercate di fregare la gente così, perché se no vi faccio la denuncia e vediamo, vedere se dobbiamo pagare la tassa montetta di 15 anni fa. E infatti adesso faccio anche così, non è quello, faccio la faccia. Paga di virus, no, ne pago, ma ne faccio cose dal 2021, gli posso presentare le ricevute. Lo so anch'io che è così adesso, vabbè, non devo di fare, vabbè, adesso vediamo un po', come la mettiamo, la bella forza. E Antone, stai saturando appena, cos'è, sta pompando troppo? Sono 40 watt, adesso sono sceso, va bene? No, no, sembra bene, no, in certi momenti sembrava un po' di saturazione, in certi momenti, boh. Allora, c'è il sole, così vedi di inserito, così è inserito, qui dovrebbe essere normale. Forse la vicinanza, chi lo sa, però quando te l'ho detto, vedi, è uscito meglio, boh, vabbè. Ci ho messo la mano sopra, bene, come si chiama, visto che sto scendendo l'aria calda, quindi la ventola sta funzionando. A un certo punto, pensando che magari fosse la ventola che avesse avuto problemi, perché sai che qua la polvere arriva, cazzo, che è una cosa allucinante qua a casa, devi stare sempre scolverando a un certo punto. Prima cosa avevo detto di quell'antenna lì, sì, ci mette un po' di tempo a arrivare quella roba lì, ne ho ordinate tante di quelle cose da AliExpress, però questa volta il bello, cioè il brutto è che non c'è tracciamento nemmeno dal sito delle poste. Presumo che sia una, non è nemmeno raccomandata, è una lettera normale, per cui certe volte non te lo danno proprio il tracciamento, perché gli cambiano il codice, quello cinese non lo usano, usano il codice italiano e poi ti arriva come fosse una normale lettera, non bussano nemmeno, cioè bussano, sì sì, bene, se no no, e la mettono nella cassetta delle poste. E quegli antennini veicolari, quelli con la calamita da 3 cm, quelli della Nagoya, c'ho tutta la collezione, c'ho il modello 102, il 104, il 108, non mi ricordo quali altri sigle ci siano, dalla più piccola alla più grande, ce n'è una con una bobina, una con due bobine, una che ha, non so, un mezzo giro di bobina sotto, una bobina grande sopra, non ho capito cosa cambi. E alla fine la logica è sempre quella, però più lunga è l'antenna, meno caricata è, meglio è, alla fine. Io lo piglio così, tanto per il ricevitore, così da mettere in macchina, poi faccio le prove comparative a vedere quale prende meglio sulle bande amatoriali. Vai Ittore. Infatti è così, chissà, sicuramente arrivano sicuramente, ci metteranno un po' di più, però già arrivano. Sì, guarda, qua raramente qualcosa non è arrivato. La cosa che non era arrivata è perché i cinesi, c'era un periodo, spero che sia passato quel periodo, che si affidavano in Italia a questa azienda chiamata Fulmine Group. Fulmine Group, scritto Fulmine Group, ed è un'azienda siciliana che ha preso questi appalti, parte degli appalti delle poste, però è una disgrazia, perché se leggi le recensioni, questi non consegnano la posta, i pacchi te li bruciano, soprattutto quelli di AliExpress, se li tengono, cioè come arriva in Italia loro segnano sul sito consegnata e tu pacco non hai visto, capito? E c'è un dirigente che ha fatto le recensioni su, mi pare si chiami TripAdvisor, TripAdvisor, una cosa del genere si pronuncia, e sono dei delinquenti lì, praticamente in una città che non ricordo, c'è la polizia locale, no? La municipale o la locale, quello che è, che manda le multe tramite questa posta di disgraziati. Cosa succede? Che questi posta non ne consegnano, oppure te la consegnano dopo mesi di ritardo, e cosa succede? Che a te la multa ti aumenta, non solo ti aumenta, ma ti aumenta a dismisura, e poi sei costretto a pagarla, perché loro, sempre questi, dicono di averla notificata, cioè sul sito mettono consegnata, e tu non hai visto né multa né niente, e la multa ti aumenta di un sacco di soldi. Infatti è una ditta che non deve lavorare. Purtroppo AliExpress si stava, almeno parte dei venditori si stavano tutti affidando a questa ditta qua per pagare meno, però questi, il problema è che questi non lavorano, non, è un disastro. Ti ho detto, se tu vedi le recensioni è un disastro. C'è gente che si è rivolta alla Federconsumatori, certi sono rivolti all'avvocato. No, non è modo di fare questo. L'unica cosa è lasciargli perdere. Se arriva, se non arriva, peggio paese. Poi sai cos'è? Vabbè, nel mio caso sono pacchettini di valore esiguo, dai. Vabbè, le cose più costose le faccio arrivare più che altro al corriere. Però dalla Cina prendo roba poco costosa, però c'è gente che per esempio da AliExpress ha speso centinaia di euro, e poi questi delinquenti di questa posta privata, appena arrivato in Italia, lo segnano come consegnate, tu pacchi non li vedi. Sembra un'associazione a delinquere, sembra. Oh, l'unica cosa è andare a fare la denuncia, ecco cos'è. Li trovano, sta tranquillo che li trovano. E gli fanno una bella multa, gli fanno. E per la base ne paga. Poi tu immagina, questi hanno la sede in Sicilia, non so se a Palermo o a Catania, non mi ricordo, credo a Palermo. Ci hanno solo pochissime filiali, ma sai cosa vuol dire dei bugigattoli? Dei bugigattoli del sottoscala, c'è anche la foto di una sede, di una di queste sedi che hanno a nord o centro Italia, e sembra una specie di sgabuzzino, insomma, cioè sembra da fuori tutto tranne una sede di poste private. Cioè tu vedi questa serranda di garage senza insegne, senza niente, immagina che razza di organizzazione da 13 che hanno questi. Sono di quei, proprio dei ladri proprio. Ecco cos'è, sono messi lì e vogliono cercare di fregare la gente, però se vengono denunciati questi così qua è tutto, dai, questi spariscono. E poi un'altra cosa, il servizio clienti, anche peggio, dice maleducati, questi al telefono, proprio persone maleducate che non ti ascoltano, che sbuffano al telefono, che si vede proprio che non ne hanno voglia. Oppure ti, come quel termine, ti perculano, cioè ti vanno a dire no, guardi che il corriere è passato, lei non era in casa o era addormentata e non l'ha sentito. Cioè gente che non può fare quel lavoro lì, non deve farlo. Tu immaginati chi per una multa magari di divieto di sosta si è trovata la patente, si è trovato la multa aumentata di centinaia di euro per un divieto di sosta, per questi disgraziati. Ma se sono ai vigili urbani, vai ai vigili urbani della città tua e lo risolvono loro, che la multa non è arrivata, ecco cosa bisogna fare. Sì, solo che i vigili urbani non gliene frega niente, perché loro dicono, ma questa ditta risulta regolare, ha vinto l'appalto, noi ci affidiamo a loro. E poi tu, io ho pensato una cosa, in quel caso, ho pensato una cosa, indovina cosa posso aver pensato. E boh, non sono nella mente tua. Sì, semplice, mi. Praticamente questi magari si sono affidati a questa posta, che sanno che tanto che sanno bene che questi sono delle stoffanti, che non consegnano le raccomandate, e quindi il comune non guadagna 80 euro dal divieto di sosta, guadagna centinaia di euro, cioè come che loro magari lo sapessero che questi non consegnano le raccomandate, e così si fanno più soldi, capito? Come fossero conniventi di questi qua, che fanno male il loro lavoro. Ehi, una, due voti, poi direttamente prende e metti in mano a un avvocato, lo metti in mano, e poi vedrai che loro le fanno sapere che la multa non è arrivata. È un macello però, anche perché poi queste cose legali magari vanno avanti 20 anni.